ancora chiaro. Tipitero. Aio. Era sassar, ara cazzar, ara cazzar, va cazzar, va cazzar. Memi bonita, becherata, sorra la cotta derretta neta. Stai quieto, è la dereca, so ma te recco, ma che sta cosa che sapore con tarras. Mozza razz, ma lo trappa, come sera sabato e torella. Presa ma c'è una mano costa a me e il tipi tipi dero. Pecora me con voluta re e il tipi tipi dero. Vamo sa canza, ma che sa costare il tipi tipi dero. Arro con la ghetta ma costa re e il tipi tipi dero. E sa busta a me, ma lo cuccia a me e il tipi tipi dero. Ma lo cave con lo cutta a me e il tipi tipi dero. Vamo sa canta, vamo sa costare il tipi tipi dero. Mara la goccia ballando il tipi tipi dero. Buona con la gala moda, la vuelta a legge, guaca guaca, da segudura a Magdalena, ma il pam pam, ta ta. È una canzone, e sta canzone, è una canzone di credo che ne sai bailar. Com'è bonita, vero trappa, siamo da ricca, bocca e caccolita, mi è andato. Mi tarrato, so co da ricco, ma to ricco, mi tarrico. Se riparita, tu ricamito. Messo il camillo, che se cos'è? Sangue del cusciambe e il tipi tipi dero. Mi ne vedo che come con cannetta il tipi tipi dero. Che non sa contare, non sa gozare il tipi tipi dero. E anche da come le cotte, ma cotte il tipi tipi dero. Siamo un sciambele, il tipi tipi dero. E ancora che con lo guttare è il tipi tipi dero. Ma non sa cantare, ma non sa gozare il tipi tipi dero. Mira la goccia bailando il tipi tipi dero. Tipi tipi. E sta canzone ne ruba perché la una patita. E siamo un'occasione che usiamo con deve tutta la volta. Una volta potas, una volta patras. Ancora me l'arriva, partiamo las manos, partiamo las dias, vamos a maledetta, vamos a bailar, che il tipi dividero, ma ne corra te con le cose a me che il tipi dividero, non riesco a cacca, lo sa cosare il tipi dividero, nella goccia paragliante il tipi dividero, ma non son dieta ma cuscia a me che il tipi dividero, ma con la racco me gusta a me che il tipi dividero. Esta canción le gusta.